Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia, grazie anche a William Porzio, cui debbo una risposta. Mi ha fatto notare che probabilmente io ho detto, parlando del protagonista della Montagna Incantata, l'ho chiamato Giovanni. Confermo, l'ho chiamato Giovanni perché ho letto La Montagna Incantata nell'edizione, nella traduzione della Lavinia Mazzucchetti, che aveva l'abitudine di tradurre i nomi tedeschi, di portarceli, offrirceli nella loro versione italiana. Infatti il protagonista della Montagna Incantata si chiama Hans e nella Montagna Incantata della Lavinia Mazzucchetti è stato tradotto con Giovanni. Mi è rimasto questo nome, ma credo che di errore vero e proprio non si tratti, o magari di un argomento in più su cui varrà la pena di parlare. Grazie comunque. Buona settimana, l'appuntamento rimane confermato a domenica prossima. Salvo naturalmente la replica, che è mercoledì subito dopo le 21.